Spiegarlo. Era qualcosa di strano, come una lama che entrava nella mia carne. Vi prego, scusatemi. Adesso va meglio, grazie. Ah! Oh! La sento di nuovo. È qui. Io sento la morte. You can call anyone to. C'è stato il cambio di film in corsa durante la settimana, come vi avevo preannunciato, come anche vi avevo preannunciato il cambio di lingua, però non è un film doppiato, è un film così in lingua originale, in italiano. Magari qualcuno l'ha riconosciuto perché lo aveva visto o perché se lo ricorda come sprazzi cinematografici qualche anno fa in Eclettica, sì, io ammetto che avevo già utilizzato questo film. Ma come un brano può ritornare, come una lettura può ritornare, anche un film può ritornare tra le scelte delle playlist di Eclettica. Se non lo scoprite, se non ve ne accorgete per conto vostro, dovrete aspettare la spedizione della playlist alla fine di questa settimana per capire di che film si tratta. La coppiata dei brani che ha caratterizzato l'inizio di questa trasmissione è stata prima The Whitsundays con It Must Be Me e poi Lady Hawk con I Don't Always Know What You Are Saying. Ed ora invece lascio lo spazio ad un gruppo che viene dal North Carolina, su cui metto il bollino di gruppo di qualità. Tra l'altro loro suoneranno nello stesso locale, la stessa sera, al South by Southwest dei Collections of Colonies of Bees. Dovrebbe essere una coppiata di quelle incredibili. Si chiamano Megaphone e questa è Lazy Suicide. Same white eyes. I compagni spirituali della gioventù sono gli amici e i libri. Gli amici hanno corpi in carne e ossa e mutano di continuo. Gli entusiasmi che ardono in una fase si raffreddano in quella successiva, cedendo ad altri ardori e ad altri amici. In un certo senso ciò vale anche per i libri. Può darsi che un libro, che ci esaltò da ragazzi, riletto anni dopo perda tutto il suo fascino e risulti soltanto il cadavere del libro che ricordavamo. Ma la grossa differenza fra gli amici e i libri è che gli amici cambiano, i libri no. Anche quando sta a raccogliere polvere e negletto in un canto della scansia, un libro conserva accanitamente il suo carattere e la sua filosofia. Può solo cambiare il nostro atteggiamento verso di esso, se lo accettiamo o lo rifiutiamo, se lo leggiamo o no. E questo è tutto. Questo era l'incipit de La Via del Samurai di Yukio Mishima. Blind you, the only way to learn you're not afraid to avverto una presenza. Sono entrato in contatto con una mente perversa. I suoi pensieri sono pensieri di morte. Via! Oh! Oh! Tu hai già ucciso e sento che ucciderai ancora. Quel canto infantile e quella villa laggiù. Quel sangue! Ah, ah, ho paura! Ho paura! Sta calma, sì. Basta! Basta, ho detto! Sì, sì, nascondiamo tutto, tutto, come se non fosse accaduto niente. Nella villa, tutto deve tornare come prima. Nessuno sa, nessuno deve sapere. Dimenticare, dimenticare ogni cosa. Per sempre, per sempre, per sempre. Into the dance hall in your shiny shoes to hear your favorite records. You've got it made, you've got it made, yeah. There's nothing like a sound to get you moving. Clears out all the empties in your brain. Makes you feel alive and strong to say, hello, I'm here. Yeah, I was born to let you know I love you. I was born to let you know I love you. And all you kids come rushing out that dance hall, you're sweating, smiling like the west sun. It forever changed. Now forever changed. You've been hit by a loaded gun. You cleared out all the empties in your brain. Now you feel alive and sure to say, hello, I'm here. Yeah, I was born to let you know I love you. Yeah, I was born to let you know. Why you look at me strange? You say you want me out, and now you're calling me names. When it comes around, just speak your mind. Don't be afraid. Don't be afraid. Yeah, when it comes around, just speak your mind. I'm talking about you should try to change. 'Cause I never felt so good, it never felt so right. When at 45 it played for the first time, it cleared out all the empties in my brain. Made me feel alive and strong to say, hello, I'm here. I was born to let you know I love you.